Un testo in bianco e nero, Carmen Consoli su 101.9, I colori dell'anima. Buonasera Donatella. Buonasera Roland e buonasera a tutti i nostri cari amici ascoltatori. Ecco, come avevo già detto, stasera la nostra puntata si colora di rosa, magari tu ci spieghi perché. Eh sì, questa sera abbiamo la fortuna di avere con noi un ospite molto speciale, una cara amica che è qui con noi e questa sera ci porterà un po' nel suo mondo attraverso la sua vita. Abbiamo qui con noi Luisa. Buongiorno. Buonasera Luisa. Buonasera. Eh sì, come voi sapete, già da qualche tempo qui ai Colori dell'Anima abbiamo lanciato un'iniziativa, infatti portiamo avanti la rubrica sull'invecchiamento attivo, visto che proprio il 2012 è l'anno europeo dell'invecchiamento attivo, e quindi cerchiamo ogni lunedì di portare qui in radio delle esperienze interessanti, delle esperienze di vita, e cercare di capire anche un po' meglio quella che è stata l'esperienza degli italiani che sono cresciuti qui, degli bruxellois o non, insomma, che quali sono le iniziative anche per le italiane, per le signore qui a Bruxelles. E questa sera Luisa ci parlerà un po' più di lei e di quello che si fa, giusto? Certo. E abbiamo sentito all'inizio la bellissima canzone di Carmen Consoli, che è della stessa terra di Luisa, se non mi sbaglio. Infatti lei è di origine sicula, giusto? Sì, di origine, sono di Mazzarino, provincia Caltanissetta, i suoi infatti. Perché lei sono invece nata in Belgio, a Morlaoué, nella Wallonia. Ah, quindi proprio nel cuore del Belgio, del verde. E ci racconti un po', insomma, com'è stata la sua infanzia? Lei è cresciuta qui da entrambi i genitori siciliani, giusto? Sì, mio papà è venuto con la prima immigrazione, perché purtroppo, come tanti italiani, ha dovuto lasciare la sua terra per poter venire in Belgio per il lavoro. E anche qui sua mamma è venuta insieme, sì, o si sono conosciuti qui? No, mia mamma è venuta, erano sposati, c'erano già 5 figli. Quattro figli. E dopo, quando siamo arrivati qui in Belgio, mio papà è arrivato prima e poi mia mamma ha dovuto aspettare, perché prima bisognava avere la casa, bisognava lavorare, e quindi mamma è venuta dopo. E sì, generalmente andavano prima i mariti per cercare lavoro, per assicurare che tutto fosse pronto. Sì. E poi, e se lo ricorda come sono venuti i suoi, in treno? Sì, in treno. Mia mamma raccontava, i miei fratelli mi raccontano che è stata durissima, perché quasi ci voleva 3 giorni, si dormiva lì, rimanevano. È stato duro, e quando mia mamma mi racconta, era molto triste, e poi quando è arrivata in Belgio, che è scesa a Namur, è stato dal sole, questo paese così grigio, freddo. Insomma, è stata dura. Deve essere stato proprio uno shock. Lo sa quanti anni aveva sua mamma quando è arrivata qui? Penso sulla quarantina. No, mi sbaglio. Penso che era molto giovane. Aspetta. Sì, con 5 figli. Della trentina. Immagino appunto sua mamma giovane con questi bambini, cresciuta nella Sicilia. Perché mia mamma purtroppo è morta a 56 anni. È stato veramente durissimo. Per lei ha sofferto tanto, e la lontananza, i suoi, questa vita, perché lei era una donna che, come i miei fratelli, sono andata a lavorare a 14 anni in miniera. Quindi, sempre nella zona dove siete cresciuti? Sì, andavano lì. Mia mamma era triste, aspettava quel pullman che li portava l'autobus. Allora lei stava sempre sulla la porta aspettando i miei fratelli. Perché, per capire un po' meglio, suo padre quando è arrivato è andato a lavorare in miniera. Anche lui, sì. Come praticamente facevano tutti, la maggior parte di quelli che arrivavano, tutti? Quasi tutti, sì, era così, purtroppo. E siamo andati a abitare nelle baracche, perché si chiamava lì Bascou, vicino Morlaoué. C'era tutte queste baracche dove c'erano stati i prigionieri. Quindi noi siamo andati a vivere tutti lì, gli italiani. Mi ricordo molto bene, stavamo tutti come dans un ghetto, si dice. Oh, mamma mia, lei se le ricorda come erano queste baracche? Sì, c'era, non c'era niente, insomma. Era un po' triste, però è quello che ho potuto constatare, che malgrado gli italiani soffrivano, erano molto solidari, si aiutavano tutti l'uno con l'altro, se qualcuno aveva qualcosa, insomma, siamo cresciuti così, però siamo anche più forti, più, come si vuole. Cioè lì vicino alle Bavacche comunque c'era una scuola, lei solo vi ricorda, sì, insomma, sì, andava, sì, piccola. Sì, andavamo a scuola, ma la scuola era Morlanway. Bisognava prendere il pullman per andare, bisognava che ci accompagnavano dove veniva il pullman. O mio papà ci veniva a prendere le volte con la moto, a me e mia sorella. Andavamo, sì, sì, insomma, è stato un po' difficile, adesso non è più così, grazie a Dio. Però in quel momento lì gli italiani hanno molto sofferto. Bisogna ricordare. E c'erano anche degli zii qui o eravate soli? No, no, solo noi, solo mio papà e mia mamma. Ma mio papà non ha lavorato molto, lui le piaceva la musica, aveva la musica, lui aveva la musica nel sangue. Sì, sì, era musicista, le piaceva. Cosa suonava? Suonava il mandolino e la chitarra e cantava. Oh, bellissimo. Infatti mi ricordo sempre che a casa nostra, quando c'era un momento, c'era sempre la festa, come si potevano, gli amici si univano, mio papà prendeva il mandolino o la chitarra e suonavano, anche i miei fratelli da piccoli hanno imparato a suonare la chitarra, avendo un padre così, solo sì. le donne no. Non si poteva ancora. No. Vabbè, però scommetto che lei sa fare l'uncinetto, la maglia o sa cucire per lo meno, quello, no? Sì, sì, sì, quello sì, certo, perché purtroppo mia mamma, e le donne di non solo mia mamma, tutte quelle donne lì facevano molto da per sé, perché la vita era talmente dura che cucivano l'oro, facevano la maglia, mia mamma faceva i maglioni, ci faceva i guanti, i calzi, tutto quello che poteva fare, poverina. Lei non stava mai ferma, anche quando stava seduta o prendeva la maglia o l'uncinetto, ma qualcosa faceva sempre. Io ho una stima pazzesca per queste persone che sanno fare la maglia. Io mi sono comprata i ferri l'anno scorso ed è ufficiale, ci ho messo 2 anni per fare una sciarpa che è venuta malissimo. Ma è vero, non ci credo. Ed è vero, è venuta tutta asimmetrica, però tanto è stato lo sforzo che me la metto ugualmente, non fa niente. Certo, lo voglio credere. Quindi veramente, cioè, quando io penso appunto alla vecchia generazione, diciamo ai nostri nonni che sgambettavano, usavano i ferri così velocemente, io mi dico è un'abilità che probabilmente noi abbiamo perso, non siamo più capaci a farlo. Io li ho ritirati fuori per i miei nipotini, sai. Cos'è Donatella? È l'amore dei bambini, è tornato questa... quell'affezione, quell'amore ti lo trasmetti così, perché tu vuoi fare qualcosa dalle mani tue, è sì. Così, ma chi me lo fa? Ma è più forte di me, vedi? Le mitiche calzette della nonna. Sì. Ma che bello. E quindi com'è che poi suo padre, che faceva la musica, è finito in miniera? Purtroppo lì, no, perché lui in paese andava a suonare quando c'erano i matrimoni, portava, però non si poteva campare solo non così, non era sufficiente, no, ha dovuto venire in Belgio. E poi sai quando ci sentivo dire a mio papà, l'anno prossimo torneremo, poi ce ne andremo in Sicilia, dalla nostra terra, parlava lui con i suoi compari, i suoi amici, mia mamma. Purtroppo nessuno di tutta quella gente lì non è tornata, sono rimasti tutti qua, guarda. Sì? Sì, sì. Ma lei quando era piccola di tanto in tanto tornava in Sicilia all'estate, no, o mai? Guardi, se ti dovessi dire la verità, io sono di origine siciliana. Il primo viaggio che ho fatto veramente, avevo 15 anni, l'ho fatto con mia sorella. Sono andata a Torino perché mia sorella si era sposata e allora mi ha preso con lei per compagnia, e ho visto la prima volta l'Italia che avevo 15 anni. E nemmeno appunto la Sicilia. No, la Sicilia no. Ben altra regione, molto più al nord. E infatti ti posso dire, Donatella, che la prima volta che sono andata in Sicilia ero mamma di 2 bambini, lo sai, avevo più di 23 anni quando sono andata lì, e non ti posso dire l'emozione che ho provato quando arrivavamo vicino al paese dei miei genitori. Mi è sembrato un altro altro, veramente avevo le palpitazioni al cuore, veramente. Era un mondo che aveva sempre sognato, sì. Vissuto tramite le parole degli altri, sì, i racconti, sì. Però... No, non ti posso descrivere l'emozione che ho provato, mi puoi credere? Posso solo immaginarlo, perché deve essere stato... È totalmente diverso, diciamo, dalla realtà di oggi, dove noi, sì, con questi voli low cost riusciamo a rientrare in Italia quasi mensilmente. Cioè, lì immagino che una volta vivere all'estero, essere un emigrante, aveva comunque tutt'altra dimensione, perché certo, non ci si telefonava nemmeno così spesso come ora. Ma dai, le notizie si sapevano, lo sai. Sai quando si sapeva una notizia, una cosa... perché era deceduto qualcuno, perché mi dispiace, ma era la verità, con le lettere, insomma, era tutto molto più lento, sì. E infatti quando sono andata in Sicilia me lo sto sempre sognato, sognavo mia nonna, di incontrarla un giorno. Pensi che mia nonna l'ho vista una volta e poi dopo 2 o 3 mesi mia nonna è deceduta. Ho avuto solo la fortuna di incontrarla una volta. E se lo ricorda invece, che cosa ha provato, qual è stata il suo primo pensiero quando poi è arrivato al paese della sua famiglia lì in Sicilia? Diceva che ha provato un'emozione fortissima, ma qual era l'impressione che aveva? Le piaceva o meno? Sì, mi è piaciuto, però mi sembrava un altro mondo. Sai perché? Perché c'era l'asino, venivano con l'asino, la mattina si gridava, veniva quello della frutta, dell'uovo. E qui in Belgio non è così, era un altro mondo, veramente. Le faceva paura all'inizio. Sì, un po' paura, sì. Però dico, questa è la terra dei miei, io mi commuovevo, perché sono così, ha detto, questa è, qui ci sono i miei nonni, la mia famiglia. C'è la mia storia. La mia storia è qui, infatti, ogni tanto mi viene quella voglia di tornare, di vederla, ma non è che ci sono andata, forse in tutto 3-4 volte, non più di questo. Però appunto alla Sicilia nel sangue in qualche modo. Ah certo, Ecco, allora abbiamo cominciato in questa prima parte di puntata, abbiamo cominciato a conoscere meglio Luisa Bongiovanni, che è con noi stasera ai Colori dell'Anima su 101.9, e abbiamo dato un primo sguardo al passato, poi ovviamente alla fine della puntata arriveremo anche a guardare piano piano, è molto piano lungo piano, il percorso, tante cartucce nascoste, esatto, arriveremo piano piano al presente. Però è un buon momento per ascoltare un artista che anche lui, insomma, con lui diamo uno sguardo nel passato, un po' più recente forse. Comunque si tratta di Rino Gaetano, che con il suo Aida. Andiamo avanti con solo un lettore CD, abbiamo fatto fuori l'USB e il CD2, e insomma ci basterà sicuramente per completare questa puntata, e la canzone è bella anche sul CD1. Rino Gaetano, che vi faremo e vi facciamo sentire spesso sui Colori dell'Anima. Stasera sono qui con Donatella e con Luisa Bongiovanni, e scopriremo pian piano perché questa puntata si tinge di rosa, e parliamo di insomma, abbiamo fatto dedicato questa puntata nel contesto della nostra serie sull'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni. Eh sì, infatti direi che qui di invecchiamento ce n'è molto poco, e invece c'è molto attivo. Confermo. E Luisa infatti ci ha portato un po' nella sua infanzia, nella Vallonie qui in Belgio, e però se non mi sbaglio lei prima mi diceva che ad un certo punto ha fatto un salto verso il nord dell'Italia. Sì, sono stata a Milano. A Milano, vado a vivere in città, come è nato Pozzetto. E come sei arrivata a Milano dal Belgio? Perché mi sono sposata e sono andata a vivere lì. Mio fratello ha sposato siamo un fratello e una sorella, quindi mia cognata è venuta a prendere il mio posto di qua in Belgio, e io sono tornata a Milano con mio marito, perché mi sono sposata e sono rimasta lì, come ho spiegato, è stato come... E suo marito era belga o era italiano? No, no, è italiano, ma aveva immigrato lui a 19 anni a Milano, cioè okay. È dal sud, era venuto come tanti gente del sud a lavorare a Milano per stare un po' meglio. E dove vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti in vacanza in Belgio, perché mio fratello si era fidanzato con sua sorella e lui è venuto. Ah, ho capito. E così abbiamo fatto uno scambio, quella di Milano è passata in Valonia, io sono andata e verso Milano. E quindi il fratello fugga le otto in realtà, con la scusa vado con mio fratello. Sì, è successo così. È tornato a casa invece con un marito italiano. I suoi genitori, quando hanno saputo che portava un nuovo italiano in casa, sono stati contenti o avrebbero preferito un belga, non so? Mia mamma, devo dire la verità, era contenta all'inizio, perché pensava che mio marito rimanesse in Belgio, ma lui fu molto onesto, gli disse: mamma, io in Belgio non ci voglio rimanere. E allora mia mamma... La pioggia non mi piace, vado nella nebbia di Milano. Mia mamma disse: allora figlio mio, io figlia da sposare non ne ho più. E allora ci siamo presi la mano per mano e ce ne siamo andati tutti e due da soli a Milano. L'ho seguito, è stato così. Ah, in pieno amore, una follia d'amore, no? Sì, sì, abbiamo fatto così, vai, bisogna dirlo. No? E poi lì sono rimasta lì per 11 anni, anche se è stata, come ti ho detto, molto dura per me, perché ho lasciato la mia famiglia, lì ero da sola, insomma, ero un po'... E quando è arrivata a Milano, poi in realtà lei... Non parlava italiano? Non sapevo parlare, perché a casa mia si parlava solo il siciliano o il francese, quindi ho dovuto imparare l'italiano. Mi hanno messa lì e oggi... Ti hanno buttato nella mischia e le hanno detto: ora pedala. Sì, infatti, no, insomma, così sono divenuta un pochino italiana milanese, diciamo così. E i miei figli sono nati tutti e due a Milano. E se lo ricorda un po' come ogni primi tempi, insomma, come sentiva gli sguardi degli italiani lì? Perché in qualche modo io mi sono sempre posta la questione, quando lei è nata qui comunque da genitori di origine italiana, e si è sempre un po' visti come gli stranieri a casa propria. Poi quando si va in Italia, però, uno pensa: ok, vado in Italia, vado nella mia famiglia. Invece no. No, anche lì, sai, poi che... Terù della Madonna, mi dicevano a me, a mia... Terù, insomma, terù, così ci dicevano. E quindi poi quando appunto uno entra in Italia, non solo, non è considerato appunto come italiano, lo chiamano proprio Terun, cioè sì. Uno dov'è che ci si sente a casa poi? È difficile. È stato difficilissimo, sì. Poco a poco mi sono abituata, però le mie vacanze, cara Donatella, ogni anno me li facevo in Belgio. Ah, sì? Perché quelli erano vacanze per me, perché mi mancava la mia famiglia, io ogni anno venivo a trovare i miei, cioè anche se mia mamma non c'era più, c'erano le mie sorelle, i miei fratelli, per me era la gioia, quel mesetto era tutto. E si faceva in treno? Sì, sì, in treno. Di notte, come era? No, si partiva la sera, si dormiva la notte, poi mi venivano a prendere a Namur. Magari venivo sola con i bambini, delle volte mi accompagnava mio marito, perché non sempre, con una paga, cosa vuoi, non è che si poteva... Certo, non era facile. Lui mi faceva contento, mi ci andava in Belgio. Ah, che bravo. E quando i suoi figli sono nati, con i suoi figli, lei parlava in dialetto siciliano, in francese o in italiano? E io ti dico la verità, dopo parlavo sempre in italiano, però ogni tanto una parola di francese gliela mettevo pure dentro. Ah sì? Sì, sì. Quando si arrabbiava in italiano e in francese? In francese. Uland, quando tu ti arrabbi in olandese o in italiano? Di solito in italiano, credo, ma dipende un po' chi mi fa arrabbiare. E quindi Luisa ci diceva che è stata a Milano per 11 anni. 11 anni. E di che cosa si occupava? Si occupava soprattutto della famiglia? Sì, cioè ho allevato i miei bambini, però ogni tanto davo qualche corso di francese, qualche allievo che aveva difficoltà a scuola, insomma mi guadagnavo qualche cosetta così, insomma. Le ripetizioni a casa. Sì, è così, E poi mi è successo qualcosa, diciamo, di un po'... Mi hanno rubato in casa e sono stata traumatizzata, non ho più voluto rimanere in Italia. Questa è stata la scusa. Davvero? Sono ritornata in Belgio, sì. Nel 77 non ci ho più voluto rimanere. E così mio marito non voleva venire. È stata durissima per mio marito, perché lui aveva sui 37 anni, lasciare Milano, il suo lavoro... Purtroppo mi ha fatto contento, per 6 mesi è stato depresso e poi, perché non sapendo parlare, come ti spiego, io ho trovato subito un lavoro, non so, forse perché era il Belgio, sono nata qui, portando il bambino alla scuola. Allora ho chiesto alla direttrice, lei, siccome era la moglie di un grande direttore, mi ha dato subito, ha detto: lei mi piace come persona. Guardi, e ci credo, da poco che parliamo, però dà veramente una buona, trasmette positività e energia. E lei mi ha detto: ti vai a presentare. Effettivamente mi hanno assunto subito. E la nostra cosa faceva? Purtroppo era dentro in blanchisserie, si chiamava Euroblanc. Sono andata lì, non mi sono posta questione se era buono. Bisognava lavorare perché non avevo mai lavorato prima, non avevo diritto a nulla, e per me la cosa più importante era avere un lavoro e acquisire i miei diritti. Che lotta, guarda, io mi entusiasmo quando sento queste cose, perché come dice lei non è importante poi quello che va a fare, però il fatto di avere una certa idea di indipendenza, di poter arrivare alla fine del giorno e dire anche oggi ho fatto qualcosa, no? Sì, purtroppo avevo la pena per mio marito, perché lui soffriva, è stata dura come ti ho spiegato, però io mi sono ben inserita. Sapendo poi, avendo fatto qualche po' di scuola in più, così, sa, mi sono fatta... E quando lei è tornata, è andata lì a Namur o qui a Bruxelles? No, mio marito mi ha detto: ti porto in Belgio, ma non in quel paesetto lì, andiamo a Bruxelles. Allora sì, sono andata a Bruxelles e lui l'ho seguito lì. E quindi comunque, voglio dire, lei ha cambiato in qualche modo vita per una terza volta, perché passare comunque dal paesello... A Bruxelles cioè, è molto diversa. Sì, è stato diverso, però qualcuno dei miei fratelli si era trasferito a Bruxelles e quindi la famiglia si andava... C'era un po' di rete sociale, diciamo. Sì, ci aiutavamo l'uno con l'altro. È stato bello anche questo, perché è stato importante all'inizio avere anche l'aiuto e il sostegno dei tuoi. Certo. Ci hanno aiutato, ci hanno... Oh no. Si faceva qualche pranzo della domenica insieme. Sì, tutte le occasioni erano buone, credetemi, per i bambini, per i cuginetti stare insieme e anche per la famiglia ritrovarci. E in quelle occasioni, mi puoi credere, Donatè, si andava a parlare e si parla sempre ancora oggi dei nostri genitori. Sono i momenti più belli per noi di ricordare il nostro padre e nostra madre. Papà faceva dei così. Buoni ricordi. Sì, quelli lì sì. Mi chiedevo, Luisa, a quei tempi era quando lei è tornata qui, ha subito trovato lavoro, erano molte le donne che già lavoravano qui in città, ha trovato anche delle differenze rispetto all'Italia, o era comunque ancora un'eccezione? C'erano già delle donne che lavoravano, ma non tanti così come adesso, erano un po' di meno. E poi ti devo dire la verità, c'era ancora un po'... il fatto che eri italiano, che eri... c'era tendevano un po' a giudicarti, c'era la diffidenza. Sì, poi siccome io venendo da Milano, ti dico la verità, lì ero visto, a Milano vedevo come si vestivano, avevo preso un po' quel piego lì, magari ti giudicavano dai vestiti, cioè questa che ci viene a fare a lavorare, non c'ha bisogno di lavorare, mi hanno fatto un po' pesare il mio modo di essere, però siccome io sono sempre stata una donna con il cuore, l'ho superate queste cose e poi devo dire che mi hanno apprezzato. passata, diciamo, la prima impressione e la paura un po' del diverso, della diversa, ma lei se lo ricorda appunto se in qualche modo invece con la famiglia o con i suoi familiari lei si doveva giustificare per il fatto che andava a lavorare? Sì, perché sì, perché vai a lavorare, perché non ti curi i tuoi bambini, perché non stai a casa. Ma io penso che questa cosa l'ho sempre avuto dentro. Volevo la mia autonomia, la mia indipendenza, volevo lavorare, mi piaceva stare fuori. Perché quando sono andata a lavorare, mi sono incominciato a vedere delle ingiustizie. E c'era una delegata sindacale che quasi doveva prendere la pensione, si chiamava Josephine, e lei mi aveva preso sotto la sua ala e mi aveva detto: a te ti tu devi fare la de delegata sindacale, tu ce l'hai, devi. Vedo gli occhi di Luisa che Che brillano. brillo. No, Non si è può vero. vedere attraverso la radio, ma noi lo possiamo testimoniare. No, è stato così, mi sono messo, diciamo, a difendere. C'avevo quella cosa, forse perché venivo dalla famiglia, così, che mi facevano sempre, aiutavo sempre i più deboli, non so perché, quelli che avevano le difficoltà. Diciamo che forse in mezzo alle ingiustizie un pochino c'era anche cresciuta, immagino che ai tempi delle Ecco. miniere di Sì. sguardi, di pressione, di cose strane ne aveva viste E parecchie. quella lì non sopportavo, era più forte di me e quindi mi E veniva Josephine come l'ha conosciuta? Josephine. È stato un giorno, perché io mi ricordo benissimo quel giorno lì, era l'11 gennaio, non ti so dire l'anno, se era 78, non mi ricordo più. C'era un gelo che non si poteva uscire, mio marito mi gridava dalla finestra: Luisa, torna a casa, non andare a lavorare. Ma io avevo paura che magari mi buttavano fuori, sai. Allora io, non so, scivolando, ci sono arrivata, ci ho messo 2 ore e mezzo per arrivare al lavoro, o 3 ore. E quando sono andata per appuntare, mi hanno detto: no, oramai la giornata non è pagata, non te la paghiamo. Come non me la pagate? Io ci ho messo 2 ore per Mi stavo rompendo la arrivare qui. schiena. Allora lei ha visto che io non mi sono lasciata fare e ha detto: tu farai la delegata sindacale, ti metto io sotto. E così è successo. Questa è la storia. Bene, stiamo scoprendo in Luisa una donna veramente forte e non vediamo l'ora di sentire di più e vi E lasciamo soprattutto un delle lotte attimo. sindacali. Esatto, vi lasciamo un attimo per una canzone di un'altra donna forte che si chiama Therese Montcalm e canta la famosissima Sweet Dreams. Un piccolo gioiello a questo brano, Sweet Dreams, Therese Montcalm, 101.9. Questa è Radio Alma e state ascoltando I colori dell'anima. Se ci volete raggiungere, contattarci con qualche domanda, suggerimento, commento, quello che volete, i colori dell'anima, @radioalma.eu. Eh sì, e questa sera su Radio Alma l'emissione, il programma si è colorato di rosa perché abbiamo con noi un ospite molto speciale che ci sta veramente offrendo una serie di racconti magnifici della sua vita, della sua esperienza. Qui con noi infatti Luisa. Sì. E siamo tutte e due un po' emozionate perché appunto Luisa ci ha raccontato della sua infanzia, dei suoi anni a Milano. Ricordiamo che Luisa appunto è nata da genitori di origine siciliana qui in Belgio. Poi, dopo un'infanzia abbastanza difficile, si è trasferita per 11 anni a Milano, dove la chiamavano la Terun, però a Milano non andava proprio bene e quindi aveva tanto nostalgia di ritornare nel suo caro Belgio, nella sua terra amata, ed è ritornata a Bruxelles, dove a Bruxelles ha incominciato a lavorare in una blanchisserie. Però la nostra cara Luisa aveva un po' la testa dura e quindi non è che proprio faceva l'operaia con gli occhi bassi, tant'è vero che ad un certo punto qualcuno l'ha notata e ha detto: Sì, tu farai la tu sindacalista. farai la sindacalista, abbiamo trovato la sindacalista del futuro. Luisa, ci vuoi raccontare un po' di quello che significava a quei tempi fare la sindacalista, innanzitutto quali erano i sindacati a Bruxelles, come... Ma molti, secondo me, molte persone come gli italiani, gli spagnoli, che non potevano avere, diciamo, qualcosa a che fare con la politica, allora forse noi ci facevamo notare diciamo che ci prendevamo una rivincita e che venivamo scelte per essere delegate sindacali. Forse l'ingiustizia dell'infanzia ci portava ad essere a proteggere gli altri. Questa ingiustizia che avevamo vissuto quando eravamo piccoli, che avevate proprio subito sulla mia pelle, perché io mi dicevo quando ero piccolina, ma io sono nata qui, io già da piccolina dicevo, ma io non sono diversa di una belga, perché devo stare da parte? Questa cosa me l'ero portata dentro sempre, e allora mi veniva spontaneo, quando una persona aveva una difficoltà, la volevo sempre difendere, era più forte di me, magari delle volte era dura, ma dovevo esserci, andavo dal capo, dal direttore, alle volte avevano problemi anche sociali, non potevano pagare il gas, non poteva, e io ce la mettevo sempre tutta, andavo dal direttore, ci dicevo monsieur Gicard, se pas payé son gas, prenez dans la caisse sociale, aidez cette personne, ci dicevo così. E lui mi faceva, ah, cara Luisa, ma come devo fare con te? Ti vorrei dire di no, è più forte. E poverino, si aiutava quella persona lì, ecco. Quindi sì. Quando Josefine in qualche modo le ha proposto di diventare sindacalista, lei ha visto veramente un'opportunità, perché immagino che comunque in quegli anni già come donna lavorare non era semplice. Figuriamoci tornare a casa e dire... faccio la rappresentante sindacale, l'hanno preso per pazza i suoi fratelli. Sì, sì, mio marito mi ha detto, ma te ne faranno vedere di tutti i colori, l'ho fatto io a Milano, ma sei matta, ma chi te lo fa fare? E poi vedendo che lui all'inizio mi ha scoraggiato, poi mi sosteneva, la sera mi confidava con mio marito e lo diceva a lui, tutte le rogne che mi capitavano. Tutte le cose che non poteva dire a nessuno. Sì, perché era anche duro, devo dire la verità, era duro. E si ricorda di qualcosa in particolare, di un episodio che le è rimasto nel cuore? Sì, sì, mi ricordo che una volta c'era una capa donna che era molto cattiva, e lei quando qualcuno gli piaceva, guarda che la verità, magari diceva questa qui oggi me la sbatto fuori, faceva di tutto, magari ammischiava delle cose, quella era dura. Proprio un conflitto personale. Conflitto, sì, ero. Allora io l'ho visto un giorno, mi ricordo che ci sono rimasti i segni, e ho visto che lei l'ha fatta apposta, allora l'ho portata anche lì nell'ufficio e c'era un'altra capa, e lei si è sentita male perché io l'ho accusato, lei accusava me, io accusavo lei, insomma lei era la capa e quindi non ci poteva passare che no, qualcuno la stava... Lei infatti dalla rabbia che io l'ho accusato, ma veramente forte, ha sbattuto la porta, che quella porta non si chiude, cioè si apriva e si chiudeva, è rimasto il segno. Però quella persona non è andata fuori, guarda, io sono felice per questo. È stata una bella vittoria, immagino. Sì, sì, sì, me la ricordo bene, guarda. Certo, me la faceva pagare, magari dopo mi mandava in un altro posto, mi trovava una scusa per il lavoro, magari che lo facevo bene o non lo facevo bene, insomma. Queste cose si sanno, che si fa. Si sanno, ma mai avuto veramente paura di perdere il posto, di essere licenziata? Sì, ho avuto paura. Perché loro trovavano sempre, mi andavano dietro, dicendo così, perché siccome ero delegata sindacale, alle volte la gente veniva da me e io mi dovevo spostare, e poi loro dicevano così, tu non fai il rendimento, ma è normale, se andavo per una persona, non è che... E cercavano sempre delle scuse per... Sì, quello sì, e infatti io ero molto nervosa, e non stavo, però piangevo, ma l'indomani ricominciavo, ripartivo di nuovo, niente da fare. Si riparte da zero. Sì, sono fatta così. Ma che bello, che bella testa dura. E non ha perso proprio niente delle sue energie, però vedo che ancora è una donna molto attiva anche in questi tempi. Sì, sì, sono rimasta così, c'ho sempre qualcosa per l'indomani. Ma infatti io, prima di passare appunto al futuro, volevo ancora chiedere una piccola cosa. Ma in quegli anni si ricorda che se si facevano tanti scioperi come se ne fanno oggi? Ah, mi ricordo un sciopero che abbiamo fatto, il primo. Questo direttore era terribile. Un giorno siamo riusciti a fare sciopero, era l'8 dicembre mi sembra, e lui non c'era stato mai uno sciopero. Non ti dico la rabbia, ci voleva buttare fuori, ci voleva chiamare la polizia, ti dico quello lì è stato una volta, l'abbiamo fatto, ma è stata durissima. Infatti quell'anno lì facevano la festa e lui ci ha sospeso la festa, non ce l'ha fatto fare. Dovete recuperare. Ah sì. Mamma mia, immagino quanto sia stato difficile. Facevate sciopero dentro la fabbrica o fuori? Fuori. E avevamo messo, non facevamo entrare nessuno. Lui era arrabbiatissimo, non ti dico, guarda. Peccato che non ci sono i filmati, ma valeva la pena, credimi. Quando vede questi scioperi di oggi, un po' una risatella se la fa, perché sembra nulla a confronto. No, non c'è da vedere nulla. E poi anche l'epoca è un'altra epoca adesso, no? È diverso. Anche mio figlio è delegato sindacale, però non è, mamma mi dice, è diverso, è duro, sai, non è più come una volta. E lo credo bene, sì, lo capisco. E infatti lei, come ci diceva, ha diversi figli, anche diversi nipoti, però so che lei non si mantiene attiva solamente nell'ambito familiare, perché porta avanti anche un po' di iniziative, se non mi sbaglio. Sì, sì, effettivamente. Io già quando lavoravo, ho incominciato a fare nella vita associativa, sono entrata nelle ACLI e piano piano mi sono incominciata a occupare di un'associazione di donne, un gruppo di donne, e poi anche mi hanno notato e ho fatto parte, cioè, e sono, faccio ancora parte del consiglio consultativo degli immigrati qui a Bruxelles, e io rappresentavo gli italiani a Bruxelles, ero vicepresidente. Adesso sono membro di bureau perché ho altri impegni, però continuo sempre a seguire, a portare avanti l'iniziativa. Sì, ce l'ho nel cuore, inutile. E che cosa facevate? Di che cosa si occupa questo gruppo? Al consiglio consultivo. Il consiglio consultivo. Sì, no, io rappresento, come le dico, l'italiano qui a Bruxelles, e però c'è problema di scuola, sociale, logement, cittadinanza. Ci sono tanti problemi, facciamo dei lavori, di gruppo di lavoro, conferenze, ci occupiamo di un sacco di cose. E ci sono tante donne? No, le donne siamo poche. Ah sì? Sono più gli uomini che le donne. Allora, donne all'ascolto, svegliatevi, svegliamoci tutte appunto le italiane che sono qui a Bruxelles e che ci ascoltano anche al di fuori di Bruxelles, in Belgio. Dobbiamo darci da fare. E prendete esempio da Luisa, quando ci si sente stanchi la sera, magari ci lamentiamo il lavoro, poi pensiamo a Luisa con molteplici attività e sempre in gamba. Quando appunto Luisa ci dici che c'è molto da fare, su che cosa si potrebbe aiutare, ad esempio quali sono i problemi che affrontate quando parlate appunto di logement, quali problemi sono quelli più attuali al giorno d'oggi? Il problema è il lavoro, prima di tutto lavoro e logement, perché gli affitti sono troppo cari e la gente non ce la fa più, prima che quasi ce ne sono molti che sono disoccupati. E quando pagano già l'affitto, che gli rimane? Non rimane quasi più niente. Quindi devo dire che però questa legislatura qui, al comune di Bruxelles, ci sono stati fatti molti logement. Sono contenta che qualche cosa, insomma, si sta smuovendo dans le logement, le travail. Io ascolto, mi informo, certo non è perfetto, ce ne vuole di più, però ho sentito dire che il y a un peu moins de chômage, che le tourisme cercano scusatemi se parlo anche in francese, no, perché fa mi parte viene di... più spontaneo. On fait beaucoup de, on a quand même trouvé beaucoup de solutions, de nouvelles manières de travailler. Le tourisme à Bruxelles, je sais, j'ai écouté Anne Echevin qui a parlé de ça, qu'à Bruxelles, on apporte beaucoup de tourisme, la restauration, il y a des choses, des portes qui s'ouvrent avec Bruxelles-les-Bains, avec... Il y a plusieurs initiatives qui permettent... Oui, et donc l'expo, tout ça, ça apporte du travail. Ça apporte pas du travail peut-être... pour tout le temps, mais pendant des périodes, ça apporte du travail et ça aide quand même des gens à trouver un travail. Ça, j'ai entendu. Et je suis contente. Bon, bien sûr, c'est pas l'idéal encore, mais quand même, on est sur la voie. J'ai entendu parler d'un projet qui va se faire sur le plateau du Hesel, d'où on va créer encore beaucoup de logements, du travail, et je voudrais que cet espoir, je veux vraiment y croire à ça, qu'il va y avoir encore du commerce, un espoir pour le futur. Che ci sia appunto un futuro per tutte. E mi chiedevo, ci sono spesso delle donne che si rivolgono a voi, che hanno bisogno, o non c'è distinzione veramente tra uomini e donne? Beh, ti posso dire che non ci sono distinzioni, perché chiunque ha bisogno, anche uno, quando tu perdi il tuo, cioè se tu sei sposata, poi ti viene un divorzio, hai comprato la casa, dall'oggi all'indomani la tua vita scende, tu ti ritrovi non hai più niente. Molti di questi casi si stanno verificando e si verificano giornalmente, se ne vedono tanti. Io per esempio l'altra volta ho aiutato anche una signora che era rimasta senza niente, con le mie donne, quel poco che abbiamo potuto aiutarla l'abbiamo aiutata. Certo, non possiamo aiutare, però facciamo un minimo tutti quanti, un minimo sì, lo facciamo. È veramente interessante, direi che vale la pena saperne ancora di più. E mi chiedevo infatti a Luisa, nella tua esperienza attuale, tu hai lavorato per diversi anni, ora suppongo che ti occupi un po' part time della tua famiglia, ti occupi un po' di questa iniziativa e sei in pensione, giusto? Sì, non lavoro più, non lavoro più, però siccome mi sono sempre attiva, penso sempre a quello che posso fare domani col mio gruppo, vado al comune. Come hai vissuto, diciamo, il giorno in cui sei andata in pensione, no? Come l'hai vissuta? Perché ci sono delle persone che vanno in depressione, sembra che si buttano da un giorno all'altro tutte le malattie, tutti i dolori. Aspetta, Donatella, non ti ho detto. Quando si è chiusa la fabbrica a Lavoir, la blanchisserie, che io lo sentivo, che c'era a 89 l'usine ha fermé. Nell'89? Sì. E allora io ho visto subito che qualcosa non andava più, che io sentivo, e io sai, quei giorni lì mi facevo il giro dell'usine e io ho preso un pezzo di carta e mi sono scritta, sì, quello che sentivo dentro, che vedevo sta fabbrica che moriva di giorno in giorno, che stava finendo. E dopo, quando devo dire la verità, per un bel mesetto, quando sono rimasta senza lavoro, io non sono stata bene e i miei figli mi dicevano, mamma, ma io non ti riconosco più, ma tu non sei più tu. Rimanevi... Si sentiva vuota. Sì, mi sentivo disperata. Non so chi mi era preso, mi ero lasciata andare un po', ma è stato poco, sai? Perché mio figlio mi ha detto, mamma, guarda che io non ti riconosco più, tu non devi rimanere così. Non usciva nemmeno più per comprare il pane, non so chi mi aveva preso. Ma poi mi sono ripresa, sai, mi sono messa, ho incominciato a pensare, ma io devo fare qualcosa. E insomma... Ferma non ci poteva stare. No, non è il mio tipo. E mi piace essere così, occuparmi, essere attiva, perché la tua vita se no non ha un senso. È come se non trovi delle soluzioni, non fai qualcosa, che fai? E come ne è uscita, diciamo, da questo periodo un po' nero? Mi sono data da fare, mi sono sempre occupata, lavorato con dei bambini, mi sono sempre data da fare, non sono mai rimasta... C'ho sempre idee nuove, c'ho sempre un'idea nel cassetto, la tiro fuori, se organizzo viaggi, conferenze, insomma. Che tipo di viaggi? Con le amiche, con le donne del consiglio? Col consiglio faccio dei lavori, dei travail de groupe, des conférences, e con le mie donne del gruppo organizziamo delle feste. Per esempio, adesso andiamo, questo sabato, andiamo in Olanda, a Krenov. Ah, bellissimo, io non ci sono mai stata. Sì. E la domenica andiamo pure a Genk a vedere la passeggiata musicale, dove c'è un bellissimo spettacolo di canzoni italiane, dove ci ritroviamo gli italiani delle Fiandre con gli italiani della Vallonia. Bellissimo. Dive allora che per tutte coloro che sono interessate a unirsi a Luisa ci possono contattare e noi vi metteremo in contatto con lei. Ecco. Grazie. E direi subito, visto che noi potremmo secondo me riempire una puntata di 3 ore qui insieme, direi che magari Luisa potrà tornare ancora una volta in studio, magari parlando di una conferenza, un'iniziativa specifica, e conteremo molto volentieri questo dialogo, perché vi devo dire che purtroppo siamo già arrivati alle 21:59 e purtroppo vi dobbiamo già lasciare. Eh sì, però io ci tengo tanto a ringraziare Luisa per quest'ora passata insieme veramente piacevolmente. Grazie anche a te, anch'io non ho visto l'ora passare. Luisa, in chiusura, penso che forse se dovessi lanciare un messaggio alle donne che ci ascoltano, quelle donne che stanno a casa sul divano, che si sentono un po' disperate, io ci direi: venite in associazione, fate qualcosa, occupatevi. Se siete soli o venite in associazione, però non rimanete da soli, c'è tante cose da fare, si può stare in compagnia, si può fare dei viaggi.